E un amico in comune mi aveva detto: devi assolutamente andare a sentire Arianna perché parla di filosofia somatica. E io ho detto: e che è la filosofia somatica? E poi ho scoperto un modo meraviglioso di approcciare la filosofia. Quindi, nel ringraziarti, ti chiedo se vuoi raccontarci qualcosa di chi sei, sul tuo lavoro e appunto sul tuo approccio alla filosofia che hai in modo meraviglioso chiamato filosofia somatica. Innanzitutto ringrazio te per avermi qui questa sera e tutti voi, sia in ascolto che in presenza. E poi devo dire che in realtà, più che parlare di me, volevo aggiungere che è un po' per noi un cerchio che si chiude, perché qui presente c'è qualcuno, tra l'altro, che può testimoniare. Quel giorno, in quell'evento lì, io ero molto preoccupata che non ci fosse nessuno ed ero sulla punta di lasciare, cioè ho detto: vabbè ragazzi, andiamo a casa e basta, non c'è nessuno. E la prima persona che si è affacciata, che non fosse un'amica, è stata proprio Lollo qui presente. E qualcuno qui presente nel pubblico mi ha detto: ma no, dai, sono venuti qui evidentemente per te, per sentirti, non mollare. Quindi puoi essere qui oggi, dopo, tra l'altro, altre esperienze che abbiamo fatto insieme. È veramente bello, è un momento ciclico a proposito di tempo. Io faccio tante cose e avendo scelto la strada della filosofia nel 2012, in maniera accademica vivo facendo tanti altri lavori, qualsiasi altro lavoro che mi permetta di sopravvivere appunto nella schizofrenia, e insieme a questo faccio ricerca, insegno e coltivo la filosofia ogni giorno. L'ho chiamata filosofia somatica un po' come provocazione, perché il punto principale di quello che io penso sia l'obiettivo dei nostri incontri è scardinare l'idea che la filosofia si faccia solo con la mente e col pensiero, ma è un processo corporeo, come tutti gli altri processi vitali, che coinvolge l'interezza dei nostri corpi, e quindi un po' rimettere il corpo al centro della discussione filosofica. E that's it. Il corpo è anche un approccio molto forte di Ari, che oggi il formato radio non gli dà la sua luce che si merita, ma anche quello del dialogo, che comunque è un dialogo che si fa con i corpi. Sì, perché io mi muovo un sacco quando parlo, quindi in radio non potete vederlo, ma in realtà già adesso credo di starmi muovendo abbastanza. E anzi, sono costretta un po' in uno spazietto, però assolutamente. E poi, in realtà, forse la nostra un'altra cosa di cui che ci ha accomunato è poter spaziare in tantissimi argomenti, compreso la musica. Compreso la musica e tanta arte. E quindi iniziamo proprio con la musica, entriamo nel vivo del tema di oggi. Il tema di oggi è il tempo. Parliamo di temporalità e delle nostre esperienze di vita riguardo alla temporalità. Iniziamo con una canzone di Cannonball Adderley, che ha inciso un album intero chiamato Soul Zodiac, in cui ci racconta tutti i segni zodiacali. Questa canzone è Virgo, è dedicata al segno della Vergine che ci accomuna. Virgo Power, tutte e due, tra l'altro. Siamo nate lo stesso giorno, mi sono dimenticato di dirlo, 6 settembre. Vergine, ascendente Scorpione, un sacco di cose, vabbè. Capiremo più avanti perché è proprio il segno della Vergine. Forse una cosa a cui possiamo iniziare a fare attenzione è il momento in cui Cannonball Adderley racconta della Vergine che, quando ti sembra che sia lenta, in realtà sta andando veloce. Quando sembra che stia andando veloce, in realtà è lenta, ma sempre a tempo. This is Virgo the Virgin, ruled by the planet Mercury. Earth sign, compatible mates Capricorn, Taurus, and Scorpio. Very attracted to Pisces, but a no-no. Virgos are very intelligent people. They are slow but sure. They talk a lot. They criticize. They're very strong people. Loads of civility. What it is, it ain't, and what it ain't, it is a theme of a Virgoan. When you think they're going slow, they're going fast. And when you think they're going fast, they're going slow, right on time. Iniziamo già a capire qualcosa con le nostre orecchie. Si parla di right on time, esattamente a tempo, e abbiamo un jazzino poliritmico assolutamente schizofrenico. Ma ci arriveremo verso la fine. Per il momento partiamo dalle basi. Partiamo da Kant. Un Kant che può forse essere capito solo nel mondo dell'onirico. E quindi, Ari, ti chiedo di spiegare a tutte quante qua presenti come hai spiegato me. Qual è stato il momento in cui tu hai capito Kant? Sì, rido perché sono consapevole del fatto che il nostro caro Emanuele sia un po' uno spauracchio, scusatemi, per tutte e tutte quelle che hanno affrontato la filosofia magari al liceo, negli anni di studio o in qualsiasi, insomma, circostanza. E la verità, ammettiamolo, lo è anche per noi filosofe. Totalmente. Cioè, secondo me, chi dice di aver capito Kant fino in fondo sta mentendo palesemente. Lo dico dopo una serie di anni di studi e approfondimenti, non è chiaro a nessuno. Il momento, a pochi forse, il momento in cui magari possiamo riuscire a districare qualcosa è un momento di assoluta allucinazione e anche lucidità. Nel mio caso, avvenuto in sogno. E tu sei stata la prima persona che ho contattato dopo aver fatto questo sogno, perché sicura che saresti l'unica a capire non solo il sogno in sé, ma quanto il valore di questa cosa, di questo avvenimento. Ve la faccio breve. Nel sogno io attraversavo una foresta ed ero in macchina con qualcuno che non riuscivo a vedere, ma di cui sentivo la voce che conduceva la macchina, ed ero in un festival. Scusami tecnico, mi guardi perché devo stare vicino al microfono, hai ragione. Intanto ne approfitto parlando, certo, di sogni per fartelo raccontare, avendo come sottofondo Dreams di Ramsey Lewis. Dunque, sono in macchina, non vedo chi conduce la macchina, ma stiamo attraversando una foresta, un bosco, una foresta di notte, e stiamo raggiungendo un festival, quindi ci troviamo nella stessa situazione più o meno in cui ci troviamo oggi, il che è molto interessante, molto quantistico appunto, come vedremo dopo. Intorno a me ci sono tende da camping, l'atmosfera è rilassata e onirica appunto, è bella, è morbida, e tutti i partecipanti a questo camping festival hanno delle lanterne. È già qui un'immagine che ritornerà più avanti, poi Kant e la lanterna. Insomma, ve la faccio breve, il conducente mi dice: senti, ma tu che hai studiato filosofia, per favore mi spieghi Kant, perché io non l'ho mai capito, questo è il mio sogno. E io, che da sveglia sarei terrorizzata davanti a questa domanda, di oddio, cioè, quante ore hai? Non lo so, perché non lo so bene neanch'io, è un casino. Nel sogno invece ero stranamente molto molto tranquilla, rilassata e felice di poter affrontare questa domanda. E dico a questa persona: guarda, quante ne sai di filosofia? Questa persona mi risponde: zero, devi partire dall'assunto che l'ho fatto al liceo, non mi ricordo niente. Va bene, perfetto, allora la faccio breve. Tre grandi opere, le tre critiche. Prima critica, critica della ragion pura. Kant si chiede una domanda molto semplice: che cos'è il pensiero e come funziona? Quindi cerca di indagare il pensiero come un fatto naturale. Dice, evidentemente il pensiero esiste nella natura, cerchiamo di disegnarlo, di capire come funziona. Seconda, dice, a che cosa serve il pensiero nella collettività? O meglio, perché dovremmo utilizzare il pensare per vivere meglio, suppongo, ma in che modo questo avviene? Terza critica, critica del giudizio, la mia prefi, in cui dice: il pensiero pensa a se stesso? Qui si vede che è filosofo, perché fa il giro barocco, però è molto semplice: il pensiero pensa a se stesso, e qui ci saranno due diramazioni, non spaventiamoci. Lui dirà: sì, il pensiero ha una certa qualità riflettente, lo chiamerò giudizio riflettente, cioè è in grado di pensare se stesso. Le implicazioni sono due: da un lato teleologia, religione, dall'altro invece cosa che andava molto, diciamo, anche in voga all'epoca, estetica, in particolar modo il bello e il sublime. Giacomino Leopardi che spunta da dietro e fa ciao con la mano. Questo è il sogno. Mi sveglio da questo sogno con una sensazione bellissima e esclamo ad alta voce: io so Kant, io capisco Kant, io conosco Kant, io l'ho capito. Cioè, io che pensavo di non averlo... Spoiler, io hegeliana, quindi non tanto amica di Kant quanto di Hegel, dico: ma no, ma in realtà non è così questo mostro spaventoso. In realtà l'ho capito. Fast forward, come si dice nei film, a Natale, io ho questa tradizione che ogni Natale... scusami, hai ragione. Ogni Natale mi rileggo i frammenti postumi di Nietzsche, così lettura natalizia, e... perché sono appunto una raccolta postuma, complessa, disorganizzata. C'è il famoso aneddoto della sorella che ci mette mano per far sembrare Nietzsche un apologeta del fascismo, il che per chi conosce Nietzsche è molto strano, però per certi aspetti ok, non è un salto così pazzo. Diciamo facilmente manovrabile. Facilmente manovrabile, soprattutto perché sono veramente frammenti, piccoli aforismi che vengono sistematizzati di volta in volta in maniera diversa in base a chi è il responsabile di questa organizzazione. Insomma, di volta in volta me lo rileggo e questo Natale mi si apre questo sogno. Tra l'altro, di Kant è avvenuto in autunno, quindi neanche troppo tempo fa. E a Natale mi si apre un ulteriore portale che mi porta a Kant. Cioè, mi imbatto in un aforisma, in una frase di Nietzsche che dice: Kant è come la volpe. Prima distrugge la gabbia, la sua gabbia, e poi ci ritorna dentro. E davanti a questa frase io mi si apre un enorme dubbio. Non capisco cosa mi voglia dire Nietzsche in questo momento. Seppur mi picco di conoscere abbastanza bene il pensiero di Nietzsche, vi lascio prima della prossima riflessione con questo piccolo esercizio che faccio di solito con i miei studenti. Cioè, vorrei che immaginassimo insieme, sia chi ci ascolta da casa, chi qui presente, una specie di lavagna molto grande, come quelle tipo dei fisici di A Beautiful Mind, che ho sempre sognato di avere, invece mi danno sempre queste lavagnette minuscole dove non riesco a scrivere nulla. E poi Milano, città del design, una mood board praticamente, dove mettiamo il mio sogno con Kant. Quindi in alto a sinistra per chi ci ascolta online. Esatto, lo mettiamo lì. Poi ci mettiamo Nietzsche che dice questa immagine della volpe che distrugge la gabbia in cui è ingabbiata per poi tornarci dentro. Questo è il grande mistero. Mm-hmm. E poi ci metto un altro personaggio che è Pierre Klossowski, uno dei più grandi studiosi di Nietzsche, del primo Novecento, che farà un po' da scuola a tutti i francesi, compreso Sexy Foucault, su come leggere. Infatti quel saggio in particolare è dedicato proprio a Michel Foucault, che si chiama Il circolo vizioso, per chi vuole poi andarselo a leggere. Riprendo in mano Pierre Klofsky e Pierre, posso chiamarlo per nome, non si offende nessuno, Pierre va a cercare di interpretare proprio questo aforisma qui. Kant è come la volpe che prima distrugge la sua gabbia e poi ci ritorna dentro. Quindi ho la guida di un maestro, la lanterna nel bosco che mi aiuta a capire dove stiamo andando. E un indizio dell'interpretazione di questo enigma nicciano sta proprio nel pensiero stesso. Cioè, sembra un dissing quello che fa Nietzsche a Kant. Sta dicendo che fondamentalmente Kant si spaventa, è un codardo. Volevo forse fare una piccola precisazione, sì, per chi non ne sa tanto di filosofia, di questa gabbia che appunto Kant con l'idea di critica cerca proprio di criticare il modo in cui pensiamo. Esatto. Ma lo fa con il pensiero stesso. Esatto. E quindi forse questa critica diventa così radicale appunto da spaventarsi, da non avere più in mano lo strumento che ha usato per criticare. Esatto, perfetto, hai colto il punto proprio nel suo centro. Qui forse uscirà un po' la barica in me, però Nietzsche dice, bravissimo, hai centrato il punto, il problema è nel modo in cui noi pensiamo le cose. Per questo si chiamano critiche, critica, critica, critica. Dobbiamo andare a fondo e capire qual è il problema del nostro rapporto con il mondo e poi anche con noi stessi, tra l'altro, l'ultima critica, appunto, il pensiero che pensa a se stesso. Quindi Nietzsche, diciamo, nell'obiettivo kantiano, è d'accordo, perfetto, dice criticare, ottimo, distruggiamo le gabbie, le strutture in cui la morale, la religione, la società ci ha messo, gabbie mentali, gabbie di pensiero che non ci permettono di vedere la realtà. Però che cosa succede? Evidentemente Kant va così in fondo che egli stesso si spaventa, la volpe ritorna dentro, perché arriva al punto in cui tutte le coordinate del pensare, quelle che Kant chiama categorie, vengono a mancare. E qui arriviamo un po' al tema, le coordinate sono proprio le coordinate con cui ci orientiamo nel mondo. E quindi è importantissimo, e Kant va a parlare di coordinate spazio-temporali. E quindi arriviamo proprio a un'idea di tempo che secondo Kant è dentro il nostro pensiero stesso. Sì, possiamo immaginarci in maniera un po' forse banale, ma secondo me non meno efficace, Kant che fa una lista di tutte le cose che secondo lui descrivono precisamente questo fatto che è pensare. Quindi in realtà c'è un atteggiamento molto scientifico di Kant qui, figlio della scienza del suo tempo, cioè molto simile ai fisici Leibniz. Dice, prendiamo in analisi proprio le varie modalità con cui questa cosa avviene e chiama queste caratteristiche categorie. La cosa interessante da notare è che l'etimologia stessa della parola categoria, questa non la sapevo neanche io, l'ho scoperta abbastanza recentemente, è davvero bella. Kata, agora, come l'agorà, lo spazio pubblico in cui si discuteva nell'antica Grecia. La kata agorà era l'accusa in un tribunale, nel tribunale pubblico. La kata agorà era l'accusa e l'apologia è la difesa. Quindi nella natura stessa della parola categoria, non a caso in italiano noi diciamo categorico, o categoricamente, c'è un movimento un po' tranchant, come dicono i francesi, c'è un taglio netto, come fa l'accusa d'altronde. L'accusa però cosa fa di solito in un tribunale? Elenca i motivi. Quindi categorizzare significa anche dare delle prove. E lo fa non casualmente, ma analizzando il fatto e poi procedendo a elencare. Da qui poi il secondo significato nel tempo di mettere insieme per similitudine. Cioè categoria è un insieme di oggetti che si somigliano per qualche motivo. Però è interessante vedere come nella natura stessa della parola in realtà ci sia prima di tutto E qui è Nietzsche che inizia a tremare di un po' di critica appunto nei confronti di Kant. C'è un'accezione morale, questa che viene dall'accusa della giurisprudenza, appunto, quindi ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che... e soprattutto c'è un movimento divisorio dal lato e dall'altro. Categorie che Kant cerca di usare per descrivere, anche questa apparentemente una parola super innocua, descrivere, e invece che contiene in sé letteralmente l'idea di un recinto. Se io descrivo, io disegno i confini di una cosa e li separo dall'altra. Quindi quello che Kant dice, io voglio semplicemente, non lo dice così, scrive molto meglio, però io voglio semplicemente descrivere le categorie che fanno del pensiero un fatto naturale. Nietzsche dice, wow, fratello, no, non è così, cioè questa frase che hai appena detto è carica di problemi, categorie, descrizione. Ora, prima di passare alla fase 2 della bomba, no, scherzo, però... Kant parte dalle due categorie, cioè dice, ok, andiamo ai minimi comuni denominatori del pensiero, quali sono? Anche qui molto fisico lui, molto molto fisico. Tempo e spazio. Se devo pensare alle due grandi categorie principali di qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa nella storia, sono tempo e non spazio. Un evento accade nel tempo in un determinato spazio, finito. Ed è questo che noi oggi cerchiamo di andare a minare. La prima minaccia arriva dalla scienza stessa, in particolar modo dalla fisica. Fisica a cui, appunto, in realtà, di cui in realtà Kant è imbevuto. Fisica che io credo personalmente, come diceva la grande filosofa, catch me outside, se... no, scherzo, se non qua credi... mi sono perso. Oh, scusami, yeah. Era una citazione un po' così, urban. Però se credete che non sia vero, io penso che l'ultimo Nietzsche sia un fisico anche lui, mm-hmm. a modo suo. Cioè, per me la carriera di Nietzsche da studioso del teatro, della tragedia, filologo che studia la tragedia, ha quasi veramente un fisico della natura, dei fenomeni. Fisica che oggi ci insegna che la fisica a cui faceva appello Kant in realtà non è per niente valida. E che tempo e spazio sono un po' meno assoluti di come sembravano. Per non dire per nulla. Per nulla, sì, sì. Ci sono due grandi personaggi, Einstein prima con la teoria della relatività, Niels Bohr dopo con la fisica quantistica, che vanno a letteralmente distruggere qualsiasi punto di riferimento che abbiamo quando pensiamo al tempo e allo spazio. Da qui la nozione di iperspazio, di spazio-tempo, fondamentalmente l'idea che nessuna delle due cose sia né lineare né progressiva, per farla molto semplice, ma entrambe le cose, prima di tutto, non le conosciamo veramente tuttora. Un buono scienziato in realtà è lo scienziato che ti dice non lo sappiamo bene come funzionano, attenzione, non l'abbiamo neanche capito bene, ma se proprio lo dovessimo descrivere come fa Kant dovremmo appellarci a tutta una serie di aggettivi quali discontinuo, rotto, ritardi, sì, che sono sinonimi, ritorni, rimandi, echi, turbamenti, o tutto quello che è il contrario di lineare e progressivo. Sembra quasi un mare mosso, un mare molto agitato e caotico. Io qui ne approfitterei per fare una piccola pausa con un aneddoto e la prossima traccia. E l'aneddoto riguarda una mia esperienza in cui sostanzialmente una serata non ero sobrissimo, un po' perso le coordinate temporali. Ed era il periodo in cui avevo iniziato a ragionare sul tempo, a lavorare su una performance tutta basata sul tempo, a leggere molto e a interrogarmi. È successa questa cosa, il giorno dopo l'ho raccontato ad Ari, in modo tipo, cioè, come racconti una serata alle amiche, no? Non in modo da filosofi. La risposta di Ari è stata, in effetti Kant comunque... ha ragione, ma non ha nemmeno ragione, perché se ci pensiamo, certo il tempo, lo spazio sono fondamentali, necessari per poter stare insieme, per poter vivere, e quindi succede che andiamo a costruirli insieme, Però forse il suo pensiero che sono assoluti, innati, necessari dentro al cervello umano, che poi il cervello umano che pensava lui era il cervello del maschio europeo occidentale, e quindi forse sì, le coordinate spazio-temporali sono necessarie, ma no, non sono così ovvie e lineari come ce le ha fatte credere. E allora chiedo ad Ari, ma vi proposto di mettere una traccia jungle in questo momento del racconto. Ma perché proprio la jungle per parlare di tempi discontinui? Perché la jungle secondo me è quantistica. Nel senso, vi spiego. Se voi provate a ballare la techno, dovete seguire la cassa dritta. Quindi la techno sta alla fisica meccanica, cioè lineare, progressiva, come la jungle sta alla fisica quantistica. Perché? Cioè, ditemi se sbaglio, ma quando provate a ballare la jungle, l'istinto principale è cercare di prendere tutti i beat e i layer della traccia. E in questo modo, secondo me, state diventando un po' più collegati al movimento quantistico dell'universo. Andando in tutte le direzioni, prendendo tutti i punti della nostra lavagna immaginaria. Esatto. E allora ci prendiamo un momento per ascoltare Jungle Poison di Manifesto. Anche tra parentesi, commento tangenziale, che non sia un caso che la drum and bass, la jungle, insieme al loro controcampo, alla down tempo e ai ritmi molto lenti, alla dub, la dub lenta, stiano diventando abbastanza di voga. Secondo me non ne possiamo proprio più della linearità in ogni situazione, quindi anche proprio quando andiamo a ballare o rallentiamo, come faremo in questi giorni, o ci buttiamo in tutte le direzioni. Vabbè, e ritornando a noi, ritornando alla fisica quantistica, andiamo avanti con le nostre chiacchiere. Molto più interessante la jungle, forse. No, stavo pensando a questa cosa, che in realtà, che non avevo pensato quando abbiamo chiacchierato sulla puntata, che in realtà è proprio la fisica quantistica a suonare un campanello d'allarme anche per noi filosofe. Cioè, la fisica quantistica che ci dice: attenzione, dobbiamo un attimo rivedere i parametri che usiamo per descrivere, perché altrimenti continuiamo a scollarci, a non dialogare, a non parlare, e invece il bello si crea proprio quando siamo in dialogo nelle nostre discipline. Kant ne è un esempio positivo anche di questo dialogo, secondo me anche Nietzsche per certi aspetti. E sto pensando in particolar modo a un fisico italiano che è anche un ottimo divulgatore, un fisico teorico, che è Carlo Rovelli, che proprio recentemente ha pubblicato la sua ultima raccolta di lezioni americane, in cui ha dialogato a lungo col Dipartimento di Filosofia dell'università in cui era un guest lecturer, sulla necessità della filosofia di riacchiappare il tempo perso riguardo a quelli che sono un po' gli avanzamenti della fisica. In particolar modo c'è una delle cose che secondo me qui va a incontrare, si sposa perfettamente con la critica che Nietzsche muove a Kant, Ricordiamoci un attimo nel nostro bellissimo mood board o lavagna immaginaria l'immagine di Kant. Io voglio proprio che voi abbiate in mente l'immagine di Kant che si spaventa, che prova un'emozione, una vertigine, che guarda in basso, non vede più nulla, che poi è quella paura che abbiamo un po' tutti quando studiamo filosofia, ma che secondo me è condivisa anche da altri tipi di studi, soprattutto quelli matematici e fisici, in senso teorico, in particolar modo di impazzire. Cioè arriviamo in un punto, in una stanza in cui non abbiamo più riferimenti, in cui abbiamo messo in dubbio talmente tanto che la nostra stessa certezza di essere, di esistere, di essere sani viene a crollare. Questa era la più grande maschera che Nietzsche voleva rompere, quella della sanità. Nietzsche voleva dimostrare che forse ciò che noi chiamiamo sano non è altro che una maschera che ci mettiamo di fronte alla paura, e ciò che noi chiamiamo folle forse la capacità di guardare in faccia quella vertigine, quella paura, e non arretrare. È un'altra di quelle immagini che appendiamo nella nostra lavagna immaginaria. E in realtà i fisici contemporanei, Rovelli per primo, sono molto espliciti a riguardo, cioè ci dicono: il più grande ostacolo che abbiamo oggi nella comprensione di come è fatto l'universo a livello comunitario, cioè quindi digerire quelle che sono le ultime scoperte e gli avanzamenti della fisica quantistica, non è la difficoltà degli argomenti, perché gli argomenti si possono spiegare anche in maniera abbastanza semplice. In realtà c'è addirittura un libro che ho scoperto ultimamente che si chiama How to Explain Quantum Physics to Your Dog, quindi cioè si può fare. Il problema è nel recinto mentale che ci siamo costruiti. Il problema è il pensiero stesso, la gabbia. Ecco che descrivere, recintare, categorizzare inizia a sembrare quella gabbia che Nietzsche aveva detto Kant è in grado di distruggere, ma poi ci si rifugia dentro. Il vero limite è il pensiero stesso. È una cosa in senso somatico, se così si può dire, che mi affascina sempre molto di Nietzsche, anche se può avere i suoi limiti, è che il pensiero non è slegato, non è qualcosa, non è un'attività, è nel corpo. E Nietzsche se la prende tantissimo col cervello proprio, come sede del pensiero. È una delle cose più belle, delle pagine più belle, sono tutte le pagine che di solito purtroppo preludono a un delirio. Cioè sono sempre le pagine prima di una crisi, proprio di salute di Nietzsche. Tra l'altro in cui lui molto spesso è in montagna, tra cui in Piemonte. Quindi chissà, respirare aria buona aiuta le buone teorie, non lo so. E l'impazzimento. E anche a quello, è tutte e due, troppo ossigeno, poco sì, troppo ossigeno. Comunque, una delle cose secondo me più interessanti e più belle è proprio che non lo fa in un senso meccanicistico e organicistico di dire il cervello è la sede principale del pensiero. No, però riconosce che parla di questa fragilità di quest'organo. Lui dice: se guardiamo all'evoluzione del corpo umano, possiamo vedere come l'organo più fragile e allo stesso tempo più complesso, alcuni parlano di specchio dell'universo per come è strutturato, ci abbia pian piano dominato e ci faccia da padrone, a tal punto che nell'epoca contemporanea è molto difficile ascoltare il resto del corpo. Siamo ingabbiati nel nostro pensiero e nel nostro cervello. E qui torniamo a un tema ricorrente comunque in Club Chimera nelle puntate di questa rassegna, che è appunto il tema di come abbiamo dimenticato di ascoltare e di ascoltare con il corpo, e di come invece siamo abituate sempre ad analizzare, a guardare, ma non con degli occhi che guardano dei colori, ma con degli occhi mentali che guardano delle idee, che usano solo il cervello per analizzare invece che sentire con il corpo. Che poi era quello che voleva criticare Kant all'inizio. Cioè io mi ricordo prof del liceo che spiega Kant dicendo, un po' barese, lui, no era barese, che dice: Kant ti spiega perché i tuoi occhiali da vista non funzionano. Quello che voleva dire è che sta cercando di dirti che le strutture che tu usi per conoscere e vedere il mondo vanno appunto messe in crisi, vanno criticate. Nietzsche dice: la prima cosa che va criticata è l'idea stessa che queste strutture esistano, uno, e due, che queste strutture abbiano luogo da qualche parte nel cervello, invece noi siamo un corpo tutto, quindi tanto c'è il cervello quanto altro, e tre, l'illusione di cui non ci, l'ultima illusione di cui non ci accorgiamo è proprio quella della identità. Ci torneremo, mettiamola qua, però già il fatto che abbiamo parlato di maschere quelli può essere un indizio. Prima di fare questo faccio una piccola deviazione, e la deviazione è questa: oltre alla fisica quantistica, in realtà esistono diverse culture nel mondo che hanno un'idea di tempo assolutamente diversa dalla nostra. Non solo esistono diverse culture, ma in realtà, statisticamente parlando, rappresentano un bacino di parlanti molto più grande del nostro, proprio a numeri. Mi riferisco in particolare, ma non sono le uniche, a due culture e quindi due comunità di parlanti, due culture linguistiche, quella dello Swahili e quella del mandarino. Se fate i calcoli, solo il mandarino sono più o meno 3 miliardi di individui, noi non siamo la maggioranza. In queste due lingue non esiste il futuro, non esiste proprio il tempo futuro. Nello Swahili è stato adottato, dopo la colonizzazione britannica, una leggerissima forma di futuro prossimo, proprio perché non riuscivano a comunicare con gli inglesi. Nel mandarino non c'è tuttora. Nel mandarino il tempo o è verticale o è tutto al passato e tutto al presente. E in particolar modo, molto affascinante, nello Swahili l'andamento temporale è esattamente l'opposto di quello che abbiamo noi in Europa o in altre parti del mondo. Cioè, se noi solitamente, anche nelle espressioni, nei modi di dire, diciamo che il futuro ci sta davanti, il futuro è davanti a te, davanti ai tuoi occhi, e il passato ci sta alle spalle, me lo sono messo alle spalle, non guarda, ma tanto è alle spalle, e il presente è quello che tu occupi qui e adesso. Nello Swahili, tra l'altro, è appena entrata una persona che parla lo Swahili, è esattamente il contrario, cioè il passato è davanti, scusate mi sono girata di spalle, non si fa, il passato è davanti a te perché tu lo puoi consultare, ricordi, archivi, memorie, tu puoi consultare, il passato ti è sempre a disposizione in maniera più o meno evidente in base a quanto funziona la CPU del tuo cervello, appunto, però lo puoi consultare. Il futuro è per natura inconoscibile e imprevedibile, dunque se lo devo associare a una postura mi sta dietro, non posso vederlo e non posso anticiparlo. Nello Swahili si procede all'indietro, dove appunto ciò che mi è successo nell'esistenza è davanti a me. Ci sarebbe tutto un discorso bellissimo per cui è molto comprensibile come l'ancestralità e il legame che abbiamo col passato diventi sacro poi. Perché davanti a me è consultabile ed è la guida, mi fa da guida nel presente. E quello che invece non posso conoscere è alle mie spalle. Procedo nel tempo al contrario rispetto a quello che pensiamo noi. Quando ho fatto queste letture, la prima cosa, non so se qui tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che conosce o legge o indaga o è curiosa sui tarocchi, però mi è proprio venuta in mente, come esempio di questa immagine del procedere all'indietro, il nono arcano maggiore dei tarocchi, che siano di Marsiglia o qualsiasi altro mazzo voi consultiate, l'eremita è sempre lo stesso. L'eremita è un abate, quindi un monaco abate, alcuni dicono essere Sant'Antonio l'abate, vestito di una tunica, questo lo sto descrivendo anche per chi è a casa, vabbè che non abbiamo un'immagine, però vestito di una tunica con una torcia in mano, in una mano, e un bastone nell'altro. Chi va per boschi o fa scalate o va per funghi sa che il bastone, ogni volta che si va in natura, è fondamentale, è il nostro specie di sesto senso, cioè tasta il terreno prima di noi. La lanterna, mi sembra abbastanza palese, illumina il percorso che noi stiamo facendo. L'eremita nel viaggio dei tarocchi è il momento di ritiro, dalla vita della città, come la maggior parte degli anacoreti o altri monaci che vanno via dalla vita cittadina comunitaria per ritirarsi in solitudine, di solito in ambienti naturali molto ostici, quali per esempio il deserto. Sant'Antonio Abate era copto in Egitto, quindi confine tra Egitto e Libia, si ritirano in solitudine per trovare Dio. Dio che, o meglio, per svuotarsi di tutte quelle che sono le influenze terrene, cittadine, e ritrovare Dio. Dio che quindi, in un senso molto asiatico anche, è nel vuoto, non è nella presenza, già questo è interessante. Ma la cosa più interessante è che tante scuole di pensiero dicono che questo eremita, tra cui quella di Jodorowsky, il regista, dicono che l'eremita proceda all'indietro e che quindi rappresenti quello che la cultura linguistica, per esempio, dello Swahili normalmente contempla nel modo di parlare. Cioè, io conosco, illumino e posso accedere sempre alle tracce del mio passato. E vorrei che questa parola tracce, orme, impronte sia anche lei messa qui nella nostra lavagna immaginaria. Procedo all'indietro e letteralmente, da cui l'etimologia della parola fede, mi affido all'ignoto, allo sconosciuto. Vuoi dire qualcosa? Non lo so, scusami. No, stavo per mettere la prossima traccia, esatto. Ma possiamo anche farlo se vuoi raccontare. No, vai, deve andare. Teniamo in mente appunto questa postura all'indietro, questo andare all'indietro e affidarsi all'ignoto. Quindi vediamo qualcosa di diverso da Kant, che si spaventa e indietreggia anche lui, ma per tornare nella sua gabbia, e invece per quanto riguarda gli asceti o altre comunità linguistiche, il fatto di non sapere e il fatto di procedere nell'ignoto fa paura, sì, ma non mi frena, non arresta il mio cammino. Tra l'altro, anche in realtà volevo iniziare a ricordare che all'inizio avevamo messo Virgo di Kahneman Adderley e l'eremita è il tarocco associato al segno della Vergine. Avevamo parlato di lanterna che illumina, che ci fa conoscere, e la lanterna che sta ritornando. E questa prossima traccia invece è di un gruppo nigeriano, le Lijadu Sisters, si chiama Life is Gone Down Low, e l'abbiamo scelta, Ari, nel momento in cui ti ho chiesto perché l'hai scelta, mi ha detto di una frase che è: life goes down low but it is never too late if we hurry, quindi la vita sta crollandoci ma non è mai troppo tardi se ci mettiamo a correre. E quindi di nuovo abbiamo questo ribaltamento tra veloce e lento, davanti, dietro, e una vita che crolla ma che riusciamo sempre a riacchiappare. Un'altra frase molto interessante che ci riporta invece al tema dello stare insieme è il momento in cui dicono: people get together, that's the only way to be free. L'unico modo per essere liberi è stare insieme. E quindi magari stare insieme anche nelle critiche di queste coordinate temporali, farle, disfarle, trovarne altre, ma farlo sempre insieme. We'll be right back. o meno in questo momento della conversazione, quando ieri ci siamo viste per parlare di questa puntata, è successa una cosa molto vivida nella mia immaginazione, quindi non potendo riprodurla provo a raccontarvela. Cioè, parlando di andare all'indietro, adesso ci spiega bene il perché, Ari è stata presa da un raptus divino della filosofia, ha fatto un mega balzo verso l'indietro, però con braccia e gambe rivolte in avanti. Quindi immaginatevi Ari che sta tipo, essendo spinta all'indietro, però con gli arti che cercano di aggrapparsi. Sì, il suono che è tipo... Dire? Quello è il suono, un suono di risucchio. Sì, che tra l'altro si collega appunto, io ho scelto questo brano, hai detto benissimo, per quei due riferimenti e anche per il fatto di andare giù, di andare verso il basso, che in realtà è un andare all'indietro nel caso del mio movimento di danza contemporanea. Però sì, immaginatevi di saltare all'indietro, o meglio, immaginatevi in questo momento... jamais de la vie, ma che stiamo esplodendo, c'è una bomba, esplodiamo e quindi tendenzialmente per la fisica meccanica, che comunque funziona, cioè ok, la fisica quantistica, però due o tre cose ci aiuta anche la fisica meccanica a capirle, è che noi veniamo sbalzati all'indietro rispetto al centro dell'esplosione, veniamo letteralmente sbalzati all'indietro, in realtà in maniera molto più caotica che tipo vettoriale precisa, però comunque veniamo sbalzati all'indietro. Teniamo a mente anche questa cosa, l'idea di una postura dell'esplosione, dello sbalzo. E sempre il nostro carissimo Carlo Rovelli, Carlone Rovellone, ci dice una cosa molto interessante sui vari modelli che circolano in questo momento nell'ambiente della fisica quantistica, su, diciamo, che spiegano un po' l'origine del nostro universo. Non ho detto la parola esplosione a caso, perché tutti abbiamo studiato a scuola la teoria del Big Bang. Quindi quello che noi veniamo educati a pensare come descrizione ultima della nascita, quindi categoria suprema della nascita dell'universo, è un'esplosione. Noi nasciamo da un'esplosione. In realtà la fisica contemporanea ci dice una cosa molto più interessante, che l'esplosione non è ancora finita. È tuttora in corso, numero uno. Noi siamo l'effetto dell'esplosione, di conseguenza l'esplosione va ancora avanti, è ancora in corso. O meglio, la descrive... utilizzando tra l'altro un'immagine, e questo è molto bello perché come la filosofia è sempre un dialogo tra generazioni, no? Sì, ci critichiamo gli uni con gli altri, ma anche portiamo avanti questo dialogo. La descrive con in realtà una immagine molto antica, che è quella della fisica dei liquidi di Archimede. Rovelli ci dice, immaginate due vasche, non so, per esempio due vasche trasparenti, rettangolari, unite da un piccolo canale, da un ponte. Quindi una struttura che è fatta con due vasche di liquido con un ponticello in mezzo. Se io ci metto una paratia stagna tra queste due vasche, per cui non passa neanche un filo di liquido da un lato e dall'altro, verso del liquido nelle due vasche, ne metto un po' di più in una e un po' di meno nell'altro, Archimede ci insegna che se alzo la paratia tenderanno a livellarsi, all'equilibrio. Cioè quella in cui c'è più acqua si rovescerà in quella, in parte in quella in cui ce n'è di meno, fino a quando non raggiungono l'equilibrio. Ora, Rovelli ci dice, noi, il nostro universo, a quanto pare, è esattamente questo momento qua, il momento in cui solleva la paratia, e noi saremmo l'onda tra un vecchio universo che sta morendo e un nuovo universo che sta nascendo ma non è ancora nato. Che è molto filosofica come immagine, estremamente filosofica come immagine, ma che soprattutto ci dà una nozione fondamentale, e qui ritorniamo a Kant che ha paura, ci dice in realtà in fisica un sistema in perfetto equilibrio è un sistema morto, e ovunque noi ci giriamo nello spazio infinito e osserviamo fin quanto siamo capaci, non esiste l'equilibrio perfetto, perché se tutto è ancora in vita e tutto sta ancora accadendo, vuol dire, per definizione, l'onda, che c'è un disequilibrio. Tra l'altro l'immagine, scusate il gesto, non è massonico o altro, ma è proprio il delta in matematica, è un'onda, letteralmente, è un differenziale. Quindi, se noi sappiamo dalla fisica che... l'equilibrio equivale alla morte e il disequilibrio equivale alla vita, scusatemi, ma Nietzsche torna, proprio rinasce ingalluzzito più che mai, dice, ma io ve l'avevo sempre detto, vi avevo sempre detto che tutte le volte che voi vi sentite al sicuro, in realtà state lentamente morendo. E tutte le volte che invece provate quella vertigine di non sapere e di non avere una via d'uscita facile su come funzionano le cose, forse lì siete più vicini che mai alla verità. La verità, dice Nietzsche, non esiste. Se proprio dovessi descriverla, sembra la sensazione di vertigine che si prova in montagna. Nietzsche che ci manda la cartolina della montagna e dice, ecco, qui si trova la verità. Per questo è molto semplice deviarlo verso l'elitismo, che comunque c'aveva, che non gli stava simpatico nessuno a Nietzsche, quindi comunque era un elitista, comunque non voleva che tutti quanti arrivassero alla montagna, ma non voleva dirlo tanto in quel senso quanto nel senso di non aver paura, o perlomeno stare nella paura. La chiave sembrerebbe essere stare nella paura. E se facciamo ai fisici, scusatemi, contemporanei, ci dicono la stessa cosa. Non affrettate la risposta. So di non sapere. È la base dell'atteggiamento scientifico corretto. Non affrettiamo la risposta. Evidentemente, cioè, è molto più interessante tutto quello che succede nel diseguale, nel disequilibrato, e non quello che veniamo educati a pensare lineare, corretto, sistematico, definito, chiaro. E quindi mi piaceva anche l'idea delle Eligiado Sister che dicono la vita verso il basso, perché è proprio questa idea di immaginarci il tempo, è il tempo di un'esplosione, o meglio di un'onda. Cavolo, io quando ho letto questa cosa, la prima cosa che ho pensato, cioè, immaginarci tutti come piccole particelle d'acqua all'interno di quest'onda è bellissimo. Immaginare quante forme quest'onda stia prendendo è assurdo. Tipo, mi sono messo a pensare, ma voi ci pensate che quest'onda ha preso, boh, non lo so, la forma della musica di Drake a un certo punto? Incredibile. Cioè, no, non lo so, è proprio il libero corso dell'universo. E qui, senza andare troppo nel profondo, perché fra un po' ci tagliamo una gamba, però si va un po' anche a unire il grande cruccio. Kant, quando ti ho detto io quella volta, non aveva poi così torto. Kant voleva trovare un modo per convivere. Mm-hmm. Kant era ossessionato. Per stare insieme dentro quest'onda. Per stare insieme dentro quest'onda e cercare di unire necessità, natura, mm-hmm, con libertà morale. Lo fa in un modo figlio del suo tempo, che evidentemente Rovelli, Nietzsche, Preludio e altri ci dicono non è più il modo valido. Però il suo intento era un intento comunitario in realtà, molto, molto meno individualistico secondo me di quello che molto spesso gli viene tacciato di essere. Io credo, se posso, che sia, certo, un bel momento per leggere una poesia meravigliosa di Antonella Nedda. Si chiama Quanti, anche lei mette dentro fisica, filosofia, tempo, tentativi di fermare questo movimento che invece è sempre continuo, ed è dentro a una raccolta che vi consiglio caldamente, che si chiama Historie. E nella poesia Quanti Antonella Nedda dice: dicono i fisici che la morte sia presente da sempre in uno spazio esatto, posata accanto alla nascita, come un lume o una mela, o un oggetto qualsiasi sopra un tavolo. Che il tempo dunque non c'è, e dobbiamo dire ora e poi solo per non impazzire. Un anno dietro l'altro, piegando i giorni dentro i calendari, pensando i loro numeri appiattiti, quando invece ronzano pieni di larve e miele. Esatto, quindi esatto. Anche qua i fisici ce lo stanno dicendo, sì. È tutto un continuo. Per certi aspetti li trovo molto più poetici di alcuni dei nostri colleghi filosofi ultimamente, sì, fisici. Totalmente. Si sono aggiornati. Si e sono... qua possiamo fare un vaffanculo filosofia analitica. Esatto. Vabbè, questa è una cosa inside joke. Però sì, sì, li trovo molto più poetici e credo che sia un ottimo momento per mettere il prossimo brano, perché prossimo brano che quando mi ha chiesto di scegliere i brani. Sapete che Nietzsche poi è diventato famoso per questa frase "Dio è morto", no? Secondo me, all'interno di questa frase, Nietzsche voleva dire il tempo è morto, il tempo della legge, il tempo dell'esattezza, il tempo della linearità, il tempo del dominio del cervello su tutto il corpo, il tempo dell'illusione che esista un sano e un malato, un bene e un male. Una delle più belle frasi di Nietzsche, che ti giuro mi tatuerei nel DNA se potessi, è sempre dei frammenti postumi, è: in natura riconoscere gli opposti per poi ricordarsi che siamo stati noi a metterceli. La natura non conosce opposizioni. E se non è fisica quantistica questa, io mi licenzio, anche non ce l'ho il lavoro, però mi licenzio lo stesso. E quindi mi immagino, appunto, quando lui dice Dio è morto e si scatena il panico in quella scena che scende il giullare, muore, si schiaccia, bruttissima, si scatena il panico, quindi ho scelto Panic in Babylon dei Brian Jonestown Massacre, proprio per celebrare questo panico scatenato dalla fisica. Di gossip musicale e astrologico. Uno dei motivi per cui ho scelto i Brian Jonestown Massacre, perché lui, fondatore One Man Band, che non era one, però c'è tutta una storia, guardatevi il documentario se vi piace la musica psichedelica, pazzo scatenato ma geniale, del segno della Vergine. Eccoci. Che ho avuto la fortuna di ascoltare a Torino qualche anno fa, ed è proprio incarna la convivenza di caos e ordine dei noi vergini e dei pesci, i nostri amici davanti, i dirimpettai, perché tu fino all'ultimo secondo in cui lui deve apparire sul palco non sei sicuro che ce la farà, perché cioè è devastato, cioè nel senso che dietro si sta, non so, sta festeggiando a modo suo, quindi letteralmente sei lì che aspetti ore di ritardo, appunto, right on time. Poi lui sbuca sul palco ed è uno dei concerti più belli, è perfetto, è esattamente quello che tu hai ascoltato, registrato, suona uguale, canta uguale, è follia. E l'ho trovato una cosa molto vergine, appunto la convivenza tra caos e ordine e precisione. E altro gossip astrologico, mi piace tanto che abbiamo messo questa guerra tra titani, Nietzsche e Kant, che sono tutti e due dei bilancia. Quindi proprio due versioni della bilancia, belli, nel senso che si, no, cercano di strutturare il tutto letteralmente, come un po' questa bilancia che cerca di dire cos'è giusto, ciò che è sbagliato. Questo, scusate, era un così gossip astrologico. perché fa sempre bene. Altro motivo per cui ho scelto Panic in Babylon è questa serie di sample che avete un po' ascoltato, di suoni naturali, che proprio lui ha usato delle registrazioni sporchissime di National Geographic o altro, che ha proprio stratificato e layerato per fare questo effetto in cui sembra, a parte tutto ovviamente il rimando ai suoni orientali, ma proprio quest'idea di entrare in una specie di foresta, in una specie di bosco, quindi il risveglio della natura. L'ultima fase del nostro incontro, quindi fra un po' vi libererò, non vi preoccupate, è proprio dedicata a questa. Quello che Nietzsche cercava di dirci fin dal principio è che i fisici oggi cercano di mandarci questi segnali, questi cartelli, è che forse il modo in cui noi siamo abituati ed educati a pensare è contro natura. In che senso? Non facciamo voli morali, assolutamente non in un senso morale, Nietzsche, jamais, ma in un senso strutturale. Cioè dice, pensare il tempo in maniera lineare e pensare le cose come esatte e presenti e precise e descrivibili e dominabili è letteralmente un fare violenza alla natura delle cose, che sono in costante divenire, che sono complesse, che sono stratificate e che non possono essere afferrate. Nel momento in cui noi cerchiamo di fare questa violenza, che Nietzsche dice è a partire dalle parole stesse, e questa è una cosa molto bella, Nietzsche è il primo che prende in causa letteralmente, come abbiamo detto all'inizio della puntata, con categoria, la filosofia stessa. Dice noi siamo complici di questa violenza. L'umano fa violenza alla natura, e lo si vede nell'effetto che secoli e secoli di pensiero illuministico hanno sul nostro pianeta. Letteralmente forzare una struttura che non aderisce alla natura delle cose, ambigue, mutevoli, dinamiche, che non conoscono nessun tipo di fissazione, appunto, e che invece il nostro modello di pensiero cerca costantemente di fissare, di categorizzare, di dividere, di opporre. A tal proposito, chiudo con il perché abbiamo scelto di chiamare questa puntata Cronos. E poi non lo facciamo apposta, ma noi continuiamo sempre a fare filosofia antica qui, vabbè, c'è il nostro destino. Cronos, che è divinità greca, che ha una storia molto particolare in realtà. È una storia che ci racconta del tempo, ma soprattutto della percezione che noi abbiamo di questo tempo e della morale, anche comunitaria, anche politica, che si nasconde dietro a questa idea di tempo. Il mito di Cronos è una serie di infanticidi e patricidi, cioè proprio una generazione e generazione di figli che uccidono i padri, padri che cercano di uccidere i figli e tutta questa bella scenetta. Si parte da Urano che sarebbe, diciamo, il corrispondente del cielo, Urano che è unito a Gea, la terra, stiamo parlando della cosmologia dell'antica Grecia, unito alla terra, continua a fecondarlo. Il cielo e la terra in questo punto della cosmologia greca non sono separati, sono uniti. Quindi immaginate proprio il cielo che schiaccia la terra e che in questo schiacciare la terra continua a procreare. Fino al punto, procrea tutta una serie di figli, tra cui Cronos, fino al punto che Gea, la terra, si ribella e chiede ai figli di uccidere o di allontanare il padre, perché dice: vostro padre continua a violentarmi e io non ce la faccio più, quindi per favore aiutatemi a detronizzarlo, allontanarlo. E sarà solo, tutti sono spaventati, paura ancora una volta, sarà solo uno, cioè Cronos, l'ultimo dei figli, a dire: vado io, lo faccio io, ti difendo io. E lo fa con un gesto che diventerà, tra l'altro, questo è molto interessante, un simbolo caro ai movimenti femministi e queer già dagli anni 60, cioè evira Urano, lo castra, in modo che non possa più fecondare a oltranza e violentare letteralmente la terra. E questo è il momento in cui nella cosmologia greca il cielo si allontana dalla terra, si separa e abbiamo il mondo così come lo conosciamo noi, con il cielo separato dalla terra. Tra l'altro Urano nel segno dell'acquario, motivo per cui The Age of Aquarius è la fine del patriarcato, coincide con la fine del patriarcato e la rivoluzione, proprio per questo movimento di evirazione. Cronos poi diventa grande, nasce l'era di Cronos, prende il posto del padre, Cronos tempo, un tempo che però è un tempo, un'età d'oro in realtà, è un'età in cui non c'è nessun tipo di conflitto, regna l'abbondanza, l'amore, la perfezione, quella che viene in realtà pensata come un'età d'oro. Quindi un'età d'oro ancora precedente sì. all'età degli dei sì. dell'Olimpo esatto. e all'età dell'essere umano. Esatto. Che viene associato nel corrispettivo romano a Saturno. Attenzione perché qui c'è un passaggio molto bello e molto interessante. Saturno non era una divinità romana, ma era una divinità etrusco-italica legata all'agricoltura e alla fecondità. E associando Cronos a Saturno è come se facessimo una specie di assemblage delle due cose. In realtà stiamo pensando già ad un tempo che diventa un po' più umano del tempo di Urano, perché è scandito dalle stagioni e di conseguenza scandito dalle attività produttive. Cioè io posso coltivare perché so che devo piantare in primavera e raccogliere all'inizio alla fine dell'estate, iniziato e così via e così via. Quindi il tempo di Saturno, seppur un tempo, un'età d'oro, come ci viene descritta dalla mitologia, già prelude a un tempo protocapitalistico, un tempo produttivo, un tempo scandito, quello che viviamo oggi. Però in questo tempo manca Polemos. Polemos, il dio del conflitto, non esiste. Fino al momento in cui Cronos, che era sposato con Rea, che partorisce tutta una serie di figli, tra cui Poseidone, Ade e Zeus, rispettivamente poi divinità dei mari, dell'Ade, dell'inferno, del cielo, del fulmine, ma del re degli dei. Quindi Cronos sposato a Rea incontra un oracolo, e questa poi è sempre una grande ricorrenza nelle tragedie greche, che gli dice: tu farai la stessa fine di tuo padre, uno dei tuoi figli ti detronizzerà e tu perderai il trono e cercherà di ucciderti. Preso dalla paura, di nuovo Kant, la volpe che cerca di... accecato dalla paura, inizia a divorare, a mangiare i suoi figli uno a uno. Celebrissimo, bellissimo dipinto di Francisco Goya, Saturno che divora i suoi figli. Quindi inizia a mangiare i suoi figli fino a quando uno e uno solo, in realtà tre, però uno ha l'idea, diciamo, cioè Zeus dice no, basta, si oppone al padre esattamente come lui si era opposto a suo padre, lo detronizza, lo caccia e da lì nasce il tempo degli dei, che è il tempo da cui i greci iniziano poi a raccontare i miti. Cioè siamo qui e ora nel tempo storico, infatti con l'ascesa di Zeus al trono nascono le prime generazioni, proprio uno dietro l'altro, il tempo si linearizza. Cosa interessante. È interessante, faccio una piccola parentesi, uno dei motivi per cui, scusate io sono un po' così però appunto quantistica, uno dei motivi per cui prima Rovelli ci ha detto l'ipotesi è quella dell'onda è molto semplice, è molto bella. Rovelli ci dice perché ipotizziamo che l'universo sia quest'onda tra un universo morente e un universo nascente, più Saturnalia di così tra l'altro, però... Perché ipotizziamo? Perché ne abbiamo delle tracce, dice esplicitamente questa parola nei suoi trattati di fisica, ne abbiamo delle tracce nel presente. Noi fisici teorici e dopo quelli di laboratorio cerchiamo di misurare queste tracce e di conseguenza cercare di creare dei modelli a partire dalle tracce che il passato ha lasciato nel presente per descrivere come funziona l'universo. Chi vi ricorda? Il nostro caro eremita con la lanterna che guarda le impronte davanti a sé che ha lasciato e procede nell'ignoto. È letteralmente l'andamento che sta facendo la scienza contemporanea. Guarda quello che è successo con la sua lanterna, tasta il terreno col suo bastone e procede nell'ignoto. Perché mi sono ricollegata alla quantistica? Perché appunto... quest'idea delle tracce, l'avevo detto anche prima da qualche parte nella nostra lavagna invisibile, tipo qui. E l'idea delle tracce è che noi abbiamo una traccia contemporanea, tra l'altro proprio in questo momento in cui parliamo, incredibile, right on time, come dice Cannonball, di questo antico tempo di Saturno, i Saturnalia, nonché il nostro amatissimo, lo dico da persona del sud, Carnevale. I Saturnalia erano delle feste che venivano festeggiati proprio in questo periodo nell'antica Roma come momento di temporanea sospensione dell'ordine morale, politico e legislativo, quindi per un paio di giorni era tutto concesso, e soprattutto in cui gli schiavi erano temporaneamente liberati, le gerarchie sociali venivano annullate, le donne potevano bere, che era una cosa vietata nell'antica Roma, festeggiare e così via. Quindi si creava questo, immaginate, caos controllato. L'idea di inserire dei momenti di caos controllato era un'idea molto intelligente, molto strategica, dei romani, che erano degli strateghi importanti. Cioè sapevano che le tracce, la memoria di periodi in cui ad esempio la schiavitù non esisteva o i ruoli di genere non esistevano, in qualche modo sono presenti dentro di noi, e che prima o poi avrebbero fatto pressione per cercare di rompere l'ordine imposto invece dall'impero. E quindi cosa fanno? Ci danno dei momenti di sfogo, dei momenti ben precisi. Soprattutto, in realtà, l'impero romano era un impero per questi aspetti molto, molto intelligente, cioè permetteva la libertà di culto al suo interno, proprio perché sapeva che reprimerla avrebbe creato una pressione sociale non indifferente. E il culto di Saturno è uno dei culti più antichi e più portati avanti nel tempo che noi conosciamo, ed è questo culto della sospensione del tempo a favore del caos. Cioè è un ricordarci costantemente che in realtà il tempo, così come noi lo conosciamo, quello della produzione, della linearità, dell'educazione, non esiste. E in quei momenti di festeggiamento possiamo praticarlo, possiamo ancora una volta praticare il caos. Il corrispondente culturale, in tutte le sue infinite sfumature e declinazioni, dei Saturnali a oggi è proprio il Carnevale. Carnevale, e qui chiudo, che non a caso ha come caratteristica principale, dove sono le caratteristiche? Il caos, quindi c'è la sospensione degli ordini. Perché? Attraverso l'uso della maschera. Mascherandomi, io in realtà divento me stesso. Il paradosso del Carnevale. Mettendomi la maschera, io non sono più lo schiavo, il medico, la donna, l'anziano, il bambino, io sono chi voglio. E questa maschera, in realtà, è l'antica traccia del fatto che io sono da sempre me stesso e sono sempre stato me stesso, e la vera maschera è quella che indosso tutti i giorni. E questa maschera, ci direbbe Nietzsche, è talmente pressante, talmente dominante, che se io non avessi dei momenti di rilascio, tutto scoppierebbe, la comunità si rivolterebbe e qualsiasi tipo di ordine scoppierebbe. Non so se... fermami se c'è qualcosa, se sto procedendo troppo. Ok. Oggi, quindi neanche a fare la posta, studiando, ho letto una frase di un geografo francese che diceva: Cronos procede mascherato. Proprio perché la maschera prima è suprema, prima ancora dell'identità del sé, prima ancora delle leggi, prima ancora delle divisioni, è l'idea che abbiamo del tempo. E da lì Kant aveva ragione, Kant la gabbia la distrugge, Kant aveva ragione. Le basi fondamentali su cui si poggia la nostra comunità sono spazio e tempo. Solo che aveva ragione anche Nietzsche nel dire: cavolo, nel momento in cui li hai fatti esplodere è proprio lì che dovevi rimanere, è proprio da lì che dovevamo partire a fare la rivoluzione concettuale, poi comunitaria e tutto, tu ti sei ritirato. E invece quella sensazione di paura è la chiave. Convivere con la paura come proprio alleato, come lo Swahili che procede all'indietro, come il fisico quantistico che procede all'indietro, è molto più naturale, nel senso che segue il corso delle cose, evidentemente, rispetto a forzarne una comprensione di petto, lineare, che tutto fa tranne che uno spiegarci e due il risultato. Cronos era anche il patrono della schizofrenia, non, questo tentativo costante di forzare la linea in una cosa che il lineare non ha nulla, non fa altro che renderci schizofrenici, le maschere, l'atto di togliere e mettere costantemente. L'invito di tutti, invece, di tutto il percorso che abbiamo fatto all'indietro, appunto, è realizzare, diciamo, il primo inganno, l'inganno supremo. La maschera che indossi ogni giorno è la forzatura. La maschera che ogni tanto ti metti per poter essere te stesso insieme. Il carnevale è una delle celebrazioni più collettive, proprio dove si crea quella folla indistinta, tra l'altro. Io, da persona del sud, noi festeggiamo a lungo il carnevale, è una tradizione a noi molto, molto per noi molto sentita, e anche un po' inquietante a tratti il carnevale, proprio perché è il momento, come Kant, in cui tu non hai alcun punto di riferimento. Se ti trovi in una folla carnevalesca a Viareggio o a Salvador di Bahia, per qualche secondo hai paura. Quello che ci invitano a dire tutti a fare meglio questi personaggi, stai lì, stai un momento nella paura. Forse uno dei motivi principali per cui Polemos, il conflitto, abita il nostro mondo è che tu non vuoi ascoltare la paura, non vuoi fermarti un attimo a ascoltare la paura e vedere quella paura come nulla di più che un tuo compagno, né un tuo padrone, né un tuo suddito, direbbe Nietzsche, un compagno che ti sta suggerendo: forse tutto quello che tu hai forzato fino ad adesso di essere, di cercare, di capire, sta crollando perché non era la cosa giusta, perché non era il modo giusto di stare al mondo. E in questo senso il momento, diciamo che, scusate, tra parentesi, persona, etimologia della parola persona, persona è la maschera del teatro greco-romano, letteralmente, la maschera, che serviva per fare d'amplificazione della voce, cioè il microfono, la nonna, esatto, del microfono, per diffondere la voce. Quindi voce che ti rappresenta proprio perché modulare, dinamica, invisibile, cangiante, diversa, corale e così via, molto di più della maschera che cerca di fissarti in un personaggio. Grazie. Beh, direi che siamo arrivate all'ultima traccia che ci porta direttamente in Brasile, quindi ci riporta a questo carnevale. Non so se vuoi dire due parole prima di farla partire. Sì, esatto. Chiudo così. Il problema principale, perché è un problema? Perché il problema della maschera è un problema legato al tempo? E chiudo con Nietzsche, con cui ho aperto, perché Nietzsche dice il problema sta proprio nel credersi identici a se stessi nel tempo. Il problema sta nelle volte e volte di cadere nell'illusione di essere se stessi perché uguali, costanti nel tempo. Non è vero, noi appunto siamo quantistici, siamo tutto, tanto, forse niente, non lo sappiamo, tra l'altro in ogni momento, come il film lì, all Everything at the same time, all over the place, non mi ricordo come si chiama il titolo, però everything, ci siamo capiti. Everything, everywhere, all at the same time. Esattamente. Adoro. Che, se ci pensate, è proprio l'immagine del carnevale. Everything at the same time. Scelto questa traccia per due motivi. Uno, semplicemente è una delle tracce più belle della storia della musica, a mio parere, quindi fa sempre piacere ascoltarla per motivi edonistici proprio. E secondo, perché appunto è un po' una celebrazione di questo carnevale che noi siamo un eterno carnevale. E terzo, perché si intitola It's a Long Way. E l'idea è esattamente quello, grazie, esattamente quello. Hai paura? Sembra difficile? Bene, va bene così. Tira un bel respiro, inizia a muoverti un po'. It's a long way, ma insieme ce la facciamo. Bene, e questo sarà il nostro invito per questi giorni di lentezza, in a long way di stare. Quindi ci vediamo, continuiamo adesso a vederci, ascoltarci con il DJ set di Accidental Collective.